sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vorrei fare una domanda molto semplice e diretta ai miei ascoltatori. Cosa ne sapete della cocaina? Chiedo cosa ne sapete della cocaina perché non voglio risposte tecniche, risposte scientifiche, non voglio fare un'inchiesta, non voglio fare la morale a nessuno, non voglio fare il distaccato, non voglio fare lo scandalizzato, non voglio fare il complice, non voglio fare il giustificatore, non voglio fare il condannatore. Voglio semplicemente capire qual è la percezione media degli italiani rispetto alla cocaina. Perché io soltanto nel pomeriggio di ieri misi questa domanda nel mio profilo Facebook. Voi direte, ma cosa c'entra? No, ma è indicativo, siccome lo faccio da un paio d'anni. Quindi ho un piccolo, modestissimo dato statistico rispetto all'attenzione riguardo a un particolare argomento che tratterò il giorno dopo alla radio. Beh, da quando ho il profilo Facebook non ho mai avuto una risposta così massiccia da parte degli ascoltatori. Tutti, o moltissima, una percentuale altissima, aveva qualcosa da dire sulla cocaina. Quindi significa che esiste una esperienza nazionale molto diretta riguardo allo sniffare cocaina. Io posso dire qual è la mia esperienza personale. Innanzitutto non ho mai sniffato perché non faccio uso di droghe. Ho un'infinità di vizi, molti ne appaleso alla radio, di altri do velate allucinazioni e indicazioni, altri ancora sono inconfessabili, ma non ho mai fatto uso di droghe. Ma non perché me ne vanti o mi senta migliore o peggiore degli altri, semplicemente che non mi interessava, non mi diverte. Mi rendo conto che rispetto alla cocaina però esiste una sorta di burina attenzione rispetto a questo uso. Non esiste coatto ammiccamento tanto palese quando uno allude a qualsiasi polvere bianca. Immaginate, una volta misi in rete una foto di me che preparavo il margarita nel periodo in cui mi piaceva molto fare quel tipo di cocktail sul quale ho scritto, pensato e immaginato. Beh, perché usavo il sale che fa parte della preparazione di questo cocktail, subito, immediatamente, ammiccamenti, doppi sensi, che è quella polvere bianca, che cos'è, che fai, che non fai. Ho un'amica che è commerciante e mi dice che il gioco commerciante in una provincia molto opulenta d'Italia, il gioco preferito delle buone signore di ottima famiglia, abituate a fare lo struscio nel corso cittadino, è di pagare con la carta di credito e fingere, dice, oh, scusami un attimo, e pulirla. Dice, sai, la pulisco, pensa un po' che figura, se qualcuno se ne fosse accorto. Poi magari l'hanno usata per raccogliere le briciole nel tavolo di cucina prima di rigovernare. Però anche loro devono fare le fighette che hanno sniffato cocaina. Beh, evidentemente esiste una circostanza nazionale per cui la cocaina è improvvisamente diventata così importante, così interessante. Non c'è festa in cui non c'è qualcuno che ogni tanto se ne vada molto velocemente al bagno. Non c'è cena, ai tempi che mi invitavano alle cene, un po' di tempo, qualche anno che non mi invita più nessuno, che qualche commensale a turno si guarda con aria complice, prende, esce, va in bagno 5, 6, 7 volte nel corso di una seduta a tavola. Voi pensate, ha dei problemi alla vescica? No, va chiaramente a sniffare, torna, tutti lo guardano. Poi quell'euforia, poi quell'aggressività. Mi ha scritto un ascoltatore proprio ieri pomeriggio, dice, vediamo se ritrovo la telefonata, me le sono scritte tutte. Vorrei far ascoltare la tua puntata, farai domani sulla cocaina, l'ha scritto ieri, al tizio che stamattina, ore 7, a Cinecittà, ha cercato di tirarmi fuori dall'auto con una testata e svariati pugni sul mio finestrino solo perché mi ero permesso di strombazzare leggermente una sua manovra azzardata. La coca sul cornetto è micidiale. Beh, evidentemente molti atteggiamenti aggressivi, molta rabbia, molta erosità, quelli che subito ti guardano male, ti vengono con la testa davanti per prenderti a testate, devono all'uso smodato di cocaina, questa mutazione del loro carattere. Un'altra signora mi dice, vediamo un po' se la trovo, è molto divertente questa cosa qui. Ah, ecco, durante una riunione, me lo dice Daniela, in ufficio, un collega mi disse, ma tu sniffi? E io, scherzando ma senza convinzione, disse, no, solo perché non me la posso permettere. Sorpresa, sapeste quanti benefattori? Dice, se avessi chiesto un prestito per pagare una bolletta, nessuno mi avrebbe filato. È l'Italia uno dei paesi europei in cui si consuma più cocaina? Siamo in grado di calcolare il quantitativo di cocaina utilizzato dalla popolazione milanese quando analizziamo le acque del depuratore di Milano Nosedo. Consumo che è circa di un chilo al giorno, che nel sabato e la domenica diventa un chilo e mezzo. In natura, la foglia di coca non è niente di più che uno stimolante naturale. Non provoca alcun pericoloso effetto collaterale. Ma questo dato di fatto cambiò quando nel 1850 i segreti della foglia di coca suscitarono l'attenzione di un medico italiano. La persona che fece conoscere la cocaina all'Europa si chiamava Paolo Mantegazza. Era un neurologo italiano e la adorava letteralmente. Diceva cose come: preferirei vivere 10 anni con la coca piuttosto che 100 senza. (800) 24 0024, il numero di telefono a cui mi auguro che ci sia una pari adesione a quella che c'è stata sul profilo di Facebook. Leggo qualche altra impressione di persone che mi hanno già risposto in anticipo alla mia domanda: cosa avete sentito dire della cocaina? Non chiedo tanto, non chiedo che mi chiami qualcuno che ne fa uso. Io immagino che nel raggio di 150 metri da dove mi trovo io ci saranno persone che comunque in questo momento già sentiranno preoccuparsi, diciamo, sta parlando di me, o forse non si preoccupano per niente, forse strizzano l'occhio al loro vicino e fanno vedere la mitologica dose pronta per essere stesa sul lavandino della toilette aziendale, pronto. Non questa azienda, le tante aziende che ci sono nel raggio di 150 metri da dove mi trovo io, pronti a farsi la loro tirata quotidiana, anche perché pare che tutti tirino, pare che non esista persona che conosce persona che tira, come le leggende metropolitane, pare che sia rarissimo nel circolo delle proprie amicizie, dei propri colleghi, delle proprie conoscenze, delle persone che si incrociano durante il giorno, non trovare persone comunque facciano questa esperienza, visto che non ci sia festa, visto che non c'è uscita serale, visto che non c'è appuntamento galante, visto che non c'è prepartita, visto che non c'è vacanza, visto che non c'è accoppiamento possibile e immaginabile senza cocaina, e visto che è così presente e così percepibile anche materialmente nelle nostre città, evidentemente tutti ne sanno qualcosa. Protagonisti di un giro di droga dai contorni ancora imprecisi. Venditori e consumatori sono persone che svolgono un'attività di pubblica utilità, come appunto la guida di tram e autobus. Lontano dalle telecamere c'è chi conferma: all'ATM, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Milano, siamo in tanti a fare uso di cocaina. Le decine di incidenti che hanno riguardato i tram negli ultimi 2 anni, letti alla luce di questa indagine, assumono tutto un altro valore, un vero e proprio pericolo sociale. Via via vi farò sentire piccoli stralci presi dalle cronache quotidiane, visto che è molto frequente che ci siano incidenti addebitati all'abuso di cocaina, improvvisi malori in persone giovanissime, dovrebbe avere il cuore saldissimo, attribuibile a cocaina, o categorie a rischio nell'uso di cocaina, a rischio o a beneficio dell'uso di cocaina. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, io sono molto perplesso in quanto sono produttore di vino, purtroppo conosco molta gente che usa cocaina e nessuno si preoccupa quando si mette alla guida dei controlli per le droghe, ma solo per quelle per l'alcol. Cioè, la sua perplessità nasce da una smodata concorrenza al suo prodotto, da cosa nasce? No, da un accanimento, secondo me, nei confronti del vino, che è un prodotto che è sempre esistito in Italia. Ah, ecco, lei dice c'è una demonizzazione di misurazioni per consumo d'alcol e non c'è invece misurazione di cocaina. Ma c'è qualcuno che propose addirittura di mettere cani antidroga all'entrata dei palazzi istituzionali? Ogni tanto i nostri parlamentari, per darsi una ripulitina e per fuggire dal sospetto di farne uso, fanno delle pubbliche, quanto ridicole e improbabili, test antidroga, che si sa che se fatti con il dovuto anticipo e il dovuto preavviso sono praticamente inefficaci. Lei dice ci dovrebbe essere un'attenzione anche nel controllare i consumatori di cocaina? Visto il problema, visto le giovani età, e visto che tutti i soldi che vanno nelle tasche della mafia, della criminalità, Perché no? Beh, ma lei che ne sa? Io oggi non voglio dare... ci sono sin troppi programmi specializzati, anche noi oggi avremo i nostri esperti, ma quello che mi interessa capire è la percezione quotidiana che ha un essere banalmente normale, con tutte le accezioni che può avere questo termine. Lei cosa ne sa della cocaina? Purtroppo, sì, dalla giovane adolescenza, le frequentazioni di ambienti di discoteca, piuttosto che pub, lounge bar, confermano lo smodato uso dei giovani modenesi di questa sostanza. Quindi lei, l'esperienza che ha lei è soltanto in luoghi, diciamo, in cui comunque si va per fare festa, per stare allegri, per conoscere persone, non negli ambienti lavoro, perché mi scrive un'ascoltatrice che invece ha un problema di tipo diverso, mi dice che una sua amica dovrebbe farsi un'operazione importante con un notissimo chirurgo luminare nella specialità che interessa appunto l'amica della nostra ascoltatrice, ma tutti sanno che è un cocainomane perso, e quindi questa qualche dubbio di mettersi le mani di un grande professionista, sapendo che comunque a questo tipo di attenzione. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Io praticamente vorrei, facendo volontariato, mi sono molto occupato e continuo ad occuparmi praticamente di questo grande problema. E ho trovato persone di diverse culture che purtroppo fanno questo uso di questa sostanza, e ovviamente ho assistito anche alla decadenza di queste persone, perché non essendo riusciti a tirarli fuori, e quindi continuo praticamente ad avere... Lei quindi ha a che fare con cocainomani che già sono nella fase dell'emarginazione, se uno è sotto la sua attenzione, quindi è già considerato un drogato. Addirittura ho assistito proprio praticamente a questa, diciamo, a questa distruzione, perché ovviamente in effetti lei sa benissimo che i neuroni non si riproducono e la cocaina distrugge in effetti queste cellule cerebrali. Sì, adesso io non sono qui per avere spiegazioni mediche. Chi ne fa uso sa perfettamente gli effetti che la cocaina su lui. Però quello che mi interessava capire, mi scrive Sergio su Facebook, dice: il problema è di impatto visivo e decoro pubblico, il cocainomane non lo riconosce e non dà così tanto fastidio, è una persona solare e allegra quando si fa, ma il messaggio che si lascia passare è proprio questo: il successo e l'integrazione li si ottiene più facilmente sniffando, così come nello sport si vince dopandosi. Lei cosa ne pensa? Io ne penso che praticamente c'è la fase, cioè questo culturalmente passa questo praticamente, c'è questa convinzione, questa cultura sulla cocaina, però ovviamente tenga presente che in effetti i momenti di successo rispetto ai momenti di depressione sono praticamente infinitesimali, nel senso che il cocainomane praticamente sta bene solamente quando sta sotto gli effetti della cocaina. E già pensa a quando se ne snifferà nuovamente, perché poi le fasi successive sono terribili, cioè proprio veramente con reazioni diverse. Senta, ma come fanno le persone che normalmente sniffano cocaina nelle redazioni dei giornali, nelle redazioni dei programmi televisivi e negli uffici e nei luoghi dove decide il destino dell'umanità, insomma, visto che è così diffuso l'uso, a mascherare questi effetti negativi? Ma evidentemente molto spesso lo fanno prima di entrare nelle trasmissioni e quindi finiscono per far vedere il lato positivo di questa... Ah, ecco, si vede nella fase allegra, poi nella fase down, certo, e non si vedono certo, più. Certo. Grazie. Pensi, sì, prego, Lucio, definire, sì. Vorrei dire soltanto, cioè, pensi pure in effetti quelli che la usano praticamente, cioè rapinatori, queste cose qua, ovviamente praticamente è un punto di forza usare la cocaina prima di andare a fare una rapina, prima di andare a fare, perché si sentono fortissimi, quindi parte da questa situazione qui. Beh, visto che molti lo stanno chiedendo, visto che poi alla fine il senso è quello, le cronache degli ultimi tempi ci hanno dimostrato come personaggi che appartengono alla sfera privilegiata di chi frequenta il bel mondo, chi frequenta la politica, via dicendo, la cocaina è l'elemento essenziale. Ognuno di noi ha una leggenda metropolitana, o realtà o vita vissuta, una festa importante con personaggi importanti, tutti elencati nelle loro cariche, nei loro ruoli, e a un certo punto arriva il vassoione di coca e si vede il personaggio importante che ci tuffa fa la faccia, come Al Pacino nel Scarface, la fase finale del film Scarface. Mi stanno chiedendo moltissimi qual è in realtà il vero rapporto tra cocaina e attività sessuale, perché pare che oramai non esista possibilità di consumare avventure, atti sessuali, seduzioni se non ci sia la cocaina. Quello che sentirete adesso è un monologo lievemente forte, lo dico subito, c'è probabilmente un'accezione anche piuttosto violenta, ma immaginate che questo è il pensiero espresso da tutte quelle signorine che vedete la sera appollaiate fuori degli usci di discoteche, da quelle che vedete e magari pensate partecipi a quali lussure inimmaginabili sulle copertine dei giornali, nelle cronache rosa, o vedete celebrate al vertice del mondo della felicità, del lusso, della spensieratezza. Questo è il pensiero che attraversa quelle pallide e tenere menti. Ho 26 anni, portati benissimo naturalmente. Mi chiamo Betty e sono una gran figa. Col lavoro che faccio, sai quanta ne vedo ogni sera? A fiumi. A me però me la regalano, sempre. Un po' perché, diciamoci la verità, ti si vogliono portare a letto. Però un po', sì, sono anche amici. A me piace un casino pippare, lo ammetto. Mi piace soprattutto per scopare. Quando becchi quello giusto, farsi una bella scopata con la coca è la cosa più figa del mondo. Paolo Rigliano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori. Paolo Rigliano è psichiatra, psicoterapeuta, da anni si occupa di tossicodipendenza, uno dei curatori del volume Cocaina, consumo, psicopatologia, trattamento, Raffaello Cortina, editore. Allora, nel monologo di Betty, è crudo nella sua espressione ma perfettamente realistico per chi conosce il mondo, per chi conosce la vita notturna, per chi conosce il retro di tutti i mondi dello spettacolo e dell'intrattenimento, probabilmente è il punto focale per cui oggi in Italia si pensa che la cocaina sia qualcosa di estremamente figo, di estremamente attinente a costumi trasgressivi e alla moda, o sbaglio? Sì, è uno degli elementi, diciamo, costitutivi di questo immaginario pubblico che ormai si impone come dominante, naturalmente come tutti gli immaginari è anche, come dire, creato da aspettative, da proiezioni, da pretese, da una sorta di pubblicità che investe questa sostanza. È bene mettere quindi alcuni punti fermi. La cocaina è una sostanza attivante, espansiva, che rompe la griglia, per così dire, la struttura, la cornice della normale identità di tutti noi. Quindi disinibisce, questo è chiaro. Spinge oltre i confini dati, dando un'euforia oltre appunto i limiti, quell'euforia che viene quando si superano i confini dell'usuale, dell'ordinario, del normalmente banale, e la persona ritiene di poter espandere il proprio ego e quindi di avere delle esperienze particolarmente esaltanti ed entusiasmanti. Quindi questa fase è una fase indubbiamente piacevole, non stiamo qui a fare i bacchettoni, se no non lo farebbe la gente. Piacevole, attenzione, come tutte le cose, non sempre, non per tutti, non tutte le volte, non in tutti i periodi della vita, perché può essere anche questa fase molto invece disturbante. Cominciamo con mettere quindi delle buone limitazioni. Quindi un messaggio che passa, che potrebbe in parte far capire il grande successo, è questo: le persone di successo usano cocaina, perché la cocaina ti fa uscire dai limiti, dalle convenzioni, le gabbie pudibonde che impedirebbero la libera espansione della tua gioia, e quindi, visto che cocaina equivale a successo, successo equivale a disinibizione, disinibizione equivale a piacere, la vulgata è che usa cocaina sarai come quelli che si divertono. Questo è il punto. Cocaina dà una immagine assolutamente illusoria di potenza, illusoria, e però è qui il paradosso che come dire inchioda e rischia di legare poi nel tempo. e questa percezione, autopercezione di sé come potente, esaltato, espanso e estremamente dominante nei contesti, e nello stesso tempo sia illusoria perché non è basata su una reale acquisizione di risorse da parte della persona, di risorse proprie, autenticamente proprie da parte della persona, sia reale perché, come quando lei per esempio dovesse farsi una, usiamo questa espressione quasi triviale, una caffettiera di caffè, lei effettivamente si sente molto carico, iperlucido, iperpronto, iperconsapevole e, come dire, estremamente mirato all'azione, anche all'azione intellettuale. Beh, è la ragione per cui la mattina mi faccio un caffè prima di fare questa trasmissione. Esatto, certo. Questo secondo me è la cornice giusta per inquadrare la benedetta azione della cocaina, e quindi una trappola, come tutte le sostanze psicotrope, come tutte le droghe, usiamo pure questo termine, nel senso che cambia lo stato mentale usuale delle persone in un modo che, ripeto, nello stesso tempo è inscindibilmente sia reale che illusorio. Reale perché effettivamente lo stato mentale cambia, ma cambia per pochissimo tempo; illusorio perché questo cambiamento non è dovuto all'acquisizione stabile di risorse proprie della persona. Ecco, una cosa io mi meraviglio, visto che oramai il mito della cocaina come oggetto e veicolo della trasgressione legata a consumi aristocratici, nobili, esclusivi, diversi, è abbastanza tramontato, come mai l'uso burino, triviale, corrivo, condiviso, banale, becero, modaiolo a cocaina sia così ancora inveterato, come se fosse veramente qualcosa che appartiene a una sfera di privilegiati. Cosa stai facendo? Mi faccio un tirino per ricarburare un po'. E cos'è? Valeriano! Ma che valeriano? È cocaina? Te sarò! Te fa bene, te fa molto bene, fatti il tiro! Io... Dai, fatti il tiro! No, non dobbiamo... Piantala! Mi sto casando! Hello? Yes, how are you? Yes, yeah. Yes? Yes. Yes, hello? Yes, hello? Yes? Yes. Hello? Yes. Hello, this is Roberto. Torre a quel malaccio di CD. Certo, se la sniffata di cocaina è diventato oggetto del dileggio, è diventato trasformazione in uso da Boldi e De Sica in uno dei tanti cinepanettoni, non ci dovrebbe essere più nulla di talmente esclusivo, di talmente meritorio di complicità, di strizzate d'occhio, di puntate di gomito per poter ancora sniffare cocaina. Ma come ripeto, a me non sto qui a fare la morale a nessuno, non sto qui a dire cosa occorra fare, cosa non occorra fare, sto semplicemente dicendo che il mio punto di vista, che non esista nulla di più cafone e coatto in questo momento che fare gli sniffatori di coca, o soprattutto vantarsi di essere sniffatori di coca. Ma il vostro parere mi illuminerà e probabilmente sovrapporrà al mio tra qualche istante, dopo le informazioni dalla borsa. 800240024. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Dale, io ho smesso, io. Veramente, non ti voglio obbligare, se hai smesso veramente, hai smesso. Ma c'è un CD in macchina per fare un pippotto sopra qua? Schiacciatela bene, perché le chianghe rompono il naso. Schiacciatela bene, sennò vi brucia il naso. Oh, gli hanno fatto il test a tutti i politici, tutti positivi in Italia. Sono in Italia. Sì, è vero. Sono in Italia, queste storie qua. E poi cosa fanno i morti di fame come me, ladri di galline, li mettono in galera, capito? Oh, io ho fatto 4 pippotti e mezzo, eh. Vai, vieni qua, fai il pippotto di cocaina. Ormai la mitologia della cocaina è diventata trama essenziale, con tutto il suo lessico, con tutti i suoi luoghi comuni, con tutti i suoi modi di dire, di gran parte della fiction italiana. Non c'è film che parla di marginalità o parla di eccelse classi sociali che non ci sia in mezzo alla cocaina. La testimonianza di Betty, quella avete ascoltato poco fa, della ragazza che diceva che in realtà la cocaina diventa il fluidificatore di attività sessuali frenetiche, era tratta dal film Polvere di Massimiliano Di Piro e Danilo Proietti. A Betty risponde un nostro ascoltatore su Facebook e dice: lasciate perdere la cocaina, ma sniffate la farfallina. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. E io ho una testimonianza da dare velocemente, anche per avvisare quelli che cominceranno a provarla. Io ho, oltre al fratello, anche parecchi amici che l'hanno usata. Per dire, mio fratello in questo momento ha quasi 45 anni e si fa l'insulina in pancia dopo pancreatite. Pronti? Sì, sì, la, no, la sto ascoltando in silenzio, non la volevo interrompere. Perché dopo anni di cocaina unita all'alcol, perché chi sniffa poi beve alcol, poi va in giro di notte, va a giocare al casinò, spreca soldi, offre a tutti, la mattina a mezzogiorno o all'una si sveglia che è in depressione e pippa un'altra volta. Per dire, mio fratello in un anno si è speso quasi 400 milioni di un tempo. Mm-hmm. E dopo qualche anno si era calmato, eccetera eccetera, anche perché non avendo soldi bevono solamente, ha avuto degli altri soldi arrivati da in qualche modo e se li è sperperati in un anno ancora. Oggi penso che la cocaina costi quasi meno dell'alcol, se paragoniamo poi l'effetto rispetto infatti, alle dosi. Infatti ero in macchina qualche giorno fa con degli amici e qualcuno ha tirato fuori il pacchettino, deve aver speso 15 euro a comprarla. Il problema è che la gente pensa che faccia chissà chi, non è vero, vai con le ragazze e dopo un po' non funzioni più. Quindi ha ragione allora, il nostro ascoltatore sull'oggetto della sniffatura piacevole. Uno, poi succede questo, quelli che hanno soldi, che in qualche modo o fanno assegni postdatati, si vendono l'orologio comprato a 5.000 euro, lo vendono a 3.000 il giorno dopo per avere i soldi per farsi la coca, poi fanno saltare le famiglie. Rubano in famiglia i soldi ai papà, alle mogli, fanno fallire le aziende, perché sono votati solo a quella finalizzazione. E poi alla fine, io ne conosco parecchi, fanno ictus, i quattro bypass, perché la cocaina è deleteria non solo per il naso, è deleteria per il cuore, perché prima di far partire la testa fa partire il cuore. Sì, ogni tanto si leggono cronache, non voglio fare né nomi né riferimenti, anche a personaggi dello spettacolo che improvvisamente hanno ictus in età non sospette e uno poi fa le sue dovute conseguenze. Sa quanta gente esce di strada agli svincoli dell'autostrada o fa tamponamenti? Perché sono pipati, non capiscono più niente. E poi cosa succede? A un certo orario gli partono le libidini, siccome sono pipati devono prendere la pastiglietta e poi vanno a fare le robette a destra e a sinistra, quelle che devono cioè fare. Cioè devono prendere il Viagra perché la cocaina inibisce, quindi se poi l'idea di felice accoppiamento che suscita la cocaina in realtà non risponde alla natura e quindi devono prendere il corrispettivo, la cocaina. Il consumo, psicopatologia, trattamento a cura di Paolo Rigliano e Emanuele Bignamini. E abbiamo in studio uno dei curatori di questo libro, Paolo Rigliano. Vediamo se lei, dottore, riesce a dare qualche elemento in più rispetto a quello che ha detto il nostro ascoltatore. Sì, l'elemento in più, ma devo dire che condivido sostanzialmente quello che l'ascoltatore ha detto in modo chiaro e in modo estremamente conseguenziale. Bisogna distinguere innanzitutto molto bene. La mitologia, la retorica della cocaina è, come dire, enfatizzata dagli effetti di un'assunzione assolutamente transitoria ed estemporanea. Come tutte le sostanze, come tutte le droghe con un alto potere di induzione della tossicodipendenza, quando si instaura un abuso e una dipendenza, ecco che la cocaina diventa una sostanza micidiale. E l'ascoltatore ha descritto alcune delle conseguenze nefaste appunto dell'abuso e della dipendenza da cocaina. Ecco, vorrei un attimo solo, dottore, interromperla perché vorrei sentire Tony e Marco, sono due ascoltatori che devono aggiungere qualcosa rispetto all'esperienza dell'ascoltatore che ha appena parlato, così lei avrà un quadro più esatto per fare qualche riflessione. Tony, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti, lei è molto autentico. Io sono un diretto interessato, cioè Tony è un nome di fantasia perché non mi va di denunciarmi, però io... È uno sniffatore, diciamo. No, non più. Non più, però io mi sono fatto di eroina, dico, io ho fatto tutto, praticamente, qualsiasi cosa, quindi in questo senso mi sembrava di dare un'opinione. Beh, indirettamente l'ha già detto il signor Giovanni. Cioè, innanzitutto non è che questa cocaina rappresenti l'icona dell'uomo pieno di soldi, che sta bene, del figo, no, è il contrario. Cioè, è più dello sfigato, diciamo la verità. Sì. Una volta solo chi aveva i soldi poteva permettersi 250.000 lire al grammo, quando l'eroina ne costava 100.000 lire. perché quando noi, quando c'era la cocaina era una festa, ma non perché fosse una droga migliore, perché non c'erano i soldi. Adesso la cocaina con 15-10 euro la prendi. Poi c'è da dire che non è cocaina, nel 10%, nel 8 volte su 10, io questo dico perché lavoro ancora in un ambito di assistenza in alcune cooperative, per cui conosco, vedo indirettamente dall'altra parte della barricata ancora il problema. E quindi non è più cocaina, è anestetico, è anfetamina pura. Quindi quando ti tiri questa roba, quando il primo non ti tira più l'uccello, non ne venga, sì, a dire che... Potremmo usare anche dei termini un po' più scientifici. Comunque ha reso l'idea, quello che volevamo dire. Chiedo scusa. Cioè, no, ma tanto di quello si non parla. Poi c'è siamo un tutti... altro aspetto, c'è altri due aspetti che non sono... No, però, guardi, nella sua crudezza ha messo il dito nella piaga. Tutti quelli che fanno i fighetti con la bustina di coca e sembra che strizzando l'occhio, se non c'è la coca, non c'è la conquista, sappiano che drammaticamente la sentenza che lei ha pronunciato peserà sulla loro libido, è inutile. Assolutamente, è così. O ti fai un tirino minuscolo. Perché, o se no, se tu già ti tiri quello che c'è in una quantità media, un grammo, così, tu non ti muovi più. Poi c'è un altro aspetto, che è lo sniffare. Io toglierei questo, perché ormai lo sniffare sono pochissimi che lo fanno. Ormai la cocaina si fuma se non si fa in endovena, ed è molto peggiore, perché quando la fai in questo senso qua, la durata è estremamente minore. Cioè tu dopo 5-10 minuti, un quarto d'ora al massimo, ti è già scesa, ti è già calata, quindi tu hai bisogno di altra. E poi c'è un altro aspetto che secondo me spesso non viene toccato, cioè la cocaina spesso viene associata al branco. Cioè, per esempio, una volta l'eroina, tu anche se eri da solo e stavi male, io tu ti pigliavi la tua busta, te ne andavi a casa e ti facevi e avevi tutto. Cioè tu sì, e non c'era bisogno di... Invece la cocaina è molto associata all'apparire, all'emergere nel branco, a fare il figo. Ma quello che dicevamo dall'inizio, Tony, non c'è festa, non c'è uscita, non c'è viaggetto, non c'è strizzata d'occhio, perché che non sottenda comunque l'uso di questa sostanza. Marco. Buongiorno a tutti. Allora sì, è vero, è sbagliato legare il consumo di cocaina al sesso, perché più delle volte fa l'effetto opposto. Ma mi spiega allora, perché, scusi, le cronache di questi ultimi giorni, le interviste, le dichiarazioni dei tutti trans coinvolti nelle vicende importanti di cui abbiamo letto, sono tutti concordanti su un punto: dai nostri clienti vengono a noi soprattutto perché, assieme alla trasgressione che noi diamo anche una bella paccata di cocaina. Sì, ma perché magari è stato detto prima, l'uso sporadico. Marco ha avuto un problema di linea, ce lo stiamo perdendo. Sentiamo Adriano. Sì, salve, buongiorno. Io mi reputo proprio un ex tossicodipendente, perché sono... Cioè, un cocainomane o come l'ascoltore di prima, un tossico... Sì, no, tossicodipendente da cocaina. Ah, perché, cocaina, sì. Perché non penso che la cocaina sia qualcosa di figo, ma porta alla tossicodipendenza. Però quando se la faceva perché era considerato un consumo figo, penso. Ma all'inizio sicuramente sì, ma poi si arriva in un circolo e mi reputo un ex tossicodipendente, perché si arriva... Io mi svegliavo al mattino e iniziavo già a pippare a colazione. Lei in che ambito si muove? Non voglio sapere con esattezza la sua professione, ma immagino che la usassi... Ho fatto il libro professionista, continuo a fare il libro professionista. Ecco, noi associamo la cocaina semplicemente, ecco, o al mondo dello spettacolo o al mondo dei figli della notte, ma esiste un consumo normale, capita a tutti noi nelle riunioni spesso, passate, presente, future, di vedere il collega un po' euforico, un po' aggressivo, con una risarella un po' sospetta. Esiste l'uso aziendale della cocaina? Cassaforte piena. Il mio capo aveva la cassaforte piena, le dico francamente. Però io quello che volevo dire è che poi, giustamente, specialmente adesso che parlavamo anche del mondo della notte, nella notte poi comporta molto di peggio, perché uno si fa di cocaina, poi semmai per alleggerire inizia a bere a livelli di alcol esagerati, ed è un circolo vizioso, perché pippa per tirarsi su e beve per farla calare, pippa per tirarsi su e beve per farla calare. Ma cosa che volevo proprio denunciare è che forse il peggio è nelle donne, perché ho conosciuto veramente una brutta parte della, del mondo femminile che risposta a tutto. Sì, anche perché loro probabilmente non hanno il problemino di cui accennava l'ascoltatore prima. La possibilità economica. No, ma primo perché molto, alle donne la regalano. Tanto, diciamolo in maniera molto molto franca, molte volte è il prezzo dell'avventura, o perlomeno è il corroborante dell'avventura. Raramente una donna se la deve comprare. È brutto, triste e politicamente scorrettissimo dirlo, ma ha già addosso il prezzo della dose che le viene offerta. Seconda cosa, immagino, poi mi conforterà il medico, questa non è una trasmissione medica, la donna non ha quell'effetto deprimente che ha l'uomo, quindi la sua sessualità può comunque esprimerla anche sotto effetto di cocaina, mentre per l'uomo è un po' più difficile. Poi ha avuto quel tipo di problema, però mi rendo conto poi adesso molte volte mi diverto, guarda, le dico di più, mi diverto più adesso andare in discoteca e guardare quelli strafatti che quando ero io in preda agli effetti della cocaina. Beh, immagino oggi come oggi. Dato che ho una esperienza abbastanza importante, cioè è molto più divertente vedere quelli che sono strafatti, che te ne accorgi da un miglio, che quando si era fatti di cocaina. E che effetto fa, visto che lei la sintomatologia la conosce perfettamente, che c'è passato, che effetto vedere uno strafattone che magari si dà anche l'aria da gran fighettone in mezzo alla gente? È veramente una cosa... Sì, a me fa ridere oggi come oggi, veramente fa ridere, perché si inizia, quando io ho iniziato, si inizia da essere super euforici i primi mesi a... grandi parlatori, public relation a mille, a poi diventare persone che si sentono accerchiati, guardati da tutti quanti, iniziano veramente a livello mentale degli effetti collaterali che... A dare di matto, sono... come suol dirsi. La ringrazio. Sono abbastanza pesanti, perché le dico, pensare che quando si è in macchina si viene addirittura... si viene seguiti da varie macchine, diventano veramente... Vengono delle ossessioni, ci sente, ma infatti questo spiega molte volte l'aggressività smodata che hanno molte persone al volante, che va oltre ogni luogo comune, ogni stress da traffico. Oggi veramente uno ha paura di toccare il clacson perché c'è subito qualcuno che scende, come ha detto l'ascoltatore, come ha scritto poco fa, comincia a prenderti a testate il finestrino. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dal traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Professor, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina? 2.000 lire. 2.000 lire. 200.000 lire. Sapete, 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io, dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi. Hai capito che voglio dire? Professor, c'è sta una firma troppo bella. Natascia, tieni i capelli biondi. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e sotto. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze d'anno, volesse girarsi il giovane moderno, né, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o vado a fare un abbonamento completo a tua Natascia. Questa è una filosofia che forse banalizza un po' il problema, ma in parte mette a fuoco quello che è il vero spostamento contemporaneo della libido da alcune attività che appartengono ai piaceri corporei, altre attività che vorrebbero esaltare, probabilmente prolungare, fortificare l'idea della condivisione del piacere, l'idea della trasgressione, l'idea dell'uscita del sé, l'idea della perdita di ogni legame e di ogni pudore, che sono in fondo punti di attesa per ognuno di noi. Ognuno di noi pensa nei momenti di estasi, vorrebbe non pensare a nulla, vorrebbe uscire dal mondo, vorrebbe che il mondo scomparisse, vorrebbe che la realtà come su Matrix fosse liquefatta e ci fosse soltanto il momento fantastico di quello che sta provando con un'altra persona o con altre persone, con altri animali, con chi piffero gli pare. Non è questo il problema, ma in realtà la cocaina, che tutto questo promette, pare che tutto questo non mantenga fino in fondo. Sentiamo Domenico. Domenico, buongiorno. Salve, buongiorno. Io vorrei fare una riflessione un po' diversa. Cioè, fino adesso si è parlato della demonizzazione, insomma, si è un po' demonizzata la cocaina. però non mi spiego come mai tanta gente la usa, come mai si è diffusa così. E la mia spiegazione... Demonizzare non è la parola giusta, io sono partito con la premessa, poi ognuno fa quello che più gli piace, più gli pare. Diamo delle testimonianze oggettive di gente che l'ha usata, mi sembra che ci sia un'esaltazione generale, un senso generale che consideri la cocaina come il corroborante necessario alla vita moderna, come una volta era il carciofo del Cinar, oggi è giusto che si dica che in realtà non è poi esattamente così. Sì, è vero, però d'altra parte il fatto che ci sia così tanta gente, a me dà questa... Ma la gente è stupida, lei non lo sa, scusi, perché quando mai la massa gli usi di massa sono stati usi intelligenti. La massa... io sono la gente e non mi ritengo stupido. No, lei è un singolo, gente significa quando... Non si può dire, la gente è fatta da un insieme di individui... Assolutamente, che fanno... No, io quando stiamo parlando di un uso massivo di una sostanza che crea dei problemi, no, mi faccia finire, scusi, dico il mio punto di vista, poi dice il suo. Non si può dire che la massa sia intelligente, la massa non è mai intelligente, perché il senso, ma questo è il mio punto di vista, è opinabile quanto vuole. Lei può dire, se lei si adegua a un comportamento collettivo semplicemente perché lo fanno gli altri, secondo me lei si adegua a una non intelligenza di massa, poi questo è il mio punto di vista. No, la vedo diversamente. Io credo che ci sia una responsabilità personale o comunque una scelta personale. E la mia riflessione poi arriva a questo, e cioè che il motivo è che la cocaina, come l'eroina, io avevo un amico che ancora vivo, ex eroinomane, che mi diceva: sì, è vero, mi rendo conto tutto quello che vuoi, ma è buona, mi piace, io sto bene e non me ne frega niente. E questo penso che sia il discorso da fare. Ma questo abbiamo detto, ma è chiaro che la droga all'inizio da gusto, se no nessuno si farebbe, e questo è logico. Ma continuano, signor dottor Nicoletti, continuano, e secondo me bisogna vederlo dall'altra parte, cos'è che gli piace, cos'è che piace alle persone. E questo, è lì che bisogna dire. Ma l'ha detto il nostro ospite. E trovare la soluzione, ma... dire sì non ti fa fare l'amore, ti dà di ripetere colata, sì, serve, però tutti lo sanno, gli utilizzatori di cocaina, però continuano. Beh, vediamo se Paolo Rigliano riesce a rispondere a questa domanda che sembra banale, ma in realtà forse non lo è nemmeno, perché al di là del trascinamento che io penso di qualcosa che appartenga in maniera fittizia al mondo del successo, al mondo del piacere, forse ci sono altri motivi. Paolo Rigliano. Ma semplicemente le persone continuano perché l'esperienza che tutte le sostanze provocano è un'esperienza forte, singolarissima, estrema soprattutto, che rompe con le strutture dell'ordinario. E allora quanto più si ripete questa esperienza, quanto più cioè si innesca e si instaura un'abitudine, tanto più tutti i sistemi, fondamentalmente i sistemi mentali, che sono sia psicologici che neurobiologici, si aggregano costituendo un motore che sempre più si mantiene con quel carattere. Cioè una cosa che nella vita ci ha dato molto gusto una volta, il nostro organismo ci porta a rifarla. Il nostro organismo, la nostra organizzazione mentale. Se io sono, devo fare una conferenza e ritengo che un caffè doppio mi aiuti, allora sono per fare la conferenza sono abituato a pensare che tutte le volte che io devo affrontare uno stress, un impegno, un obiettivo buono, un obiettivo positivo, un obiettivo alto, particolarmente di valore per me, allora io mi farò un caffè doppio. Allora, questa banalità non è tanto banale se pensiamo che anche la caffeina è una sostanza psicotropa della nostra quotidianità che tutti apprezziamo e tutti impariamo più o meno a gestire. Il punto è che alcune sostanze, e la cocaina è la capostipite di queste sostanze, hanno, contrariamente alla caffeina, un potere micidiale, specialissimo e soprattutto estremo. E quindi il processo di instaurazione dell'abuso e della dipendenza è molto più rapido, massiccio, pervasivo e soprattutto, lo ripeto fino alla nausea, estremo. Quindi questo è un elemento fondamentale. Quello che lei dice però non mi illudo che scoraggerà nessuno di coloro che ascoltano a farsi la tirata di cocaina se questo fa parte delle loro abitudini sociali o delle loro necessità sociali. Sentiamo Emanuele. Emanuele. Salve, guarda, io più che altro porto delle testimonianze perché lascio poi i commenti ai politici, perché il problema è politico. I medici possono giusto dire che fa male, come è ovvio che sia. Io vivo in un paese della provincia di Milano, giro anche nei paesi limitrofi, cioè ho 30 anni e conosco un sacco di persone perché nei paesi si parla così. E niente, io posso dire, guarda, senza perdermi niente, che più del 50% dei miei amici fanno uso di cocaina, chi saltuariamente il sabato sera, perché ormai è quasi un'usanza. Ecco, mi descriva, scusi, tutti i passaggi della liturgia del sabato sera, per capire, cioè lo sfigato medio di paese dell'Interland milanese, mi scusi che la chiamo così, ma non trovo altre definizioni in questo momento più felici, come si avvicina a questo uso del sabato sera? Guardi, ci sono diverse usanze tra le persone che conosco. Chi abusa di tutte le sostanze a 360 gradi, probabilmente perché, come diceva, è un po' sfigato, quindi parte con una dose massiccia di alcol, dopodiché passa subito a sostanze tipo cocaina già nella prima parte della serata, alle 10, alle 11, così, in modo da farsi scendere, questo perché ha un effetto opposto, se vogliamo, all'alcol, e quindi lo fa scendere un pochino l'effetto, e può entrare in discoteca o nei locali in modo da essere più brillante. Dopodiché nella terza parte della serata continua con quest'uso qua, perché si vuole in un certo senso distaccare dallo stress del, anche se a mio avviso ti stressa ancora di più, però forse chiudersi, perché poi ti porta a farlo con degli amici, così ti metti in macchina o a casa di qualcuno a farlo, ti rilassi un po'. Sì, ma il finale della serata, qual è la fine? Le serate del sabato sera, per quel ricordo confuso che ho di quando ero giovane, io alla fine uno sperava sempre di concluderla non da solo la serata. Ma sì, guardi, io devo dire che prima vivevo molto di più con queste persone, soprattutto quelle che ne usano tanto. Quanti anni ha lei? 30. 30 anni, sì. No, un'altra cosa, poi le volevo dire anche un'altra cosa velocissima. Niente, vedo con tristezza che la cocaina, a differenza di sostanze forse più leggere, più empatiche, ti porta a rinchiuderti con due o tre amici, sempre quelli, tendenzialmente, perché li inquadri con l'attività dello sniffaggio, diciamo. E quindi, cioè, in realtà ti fa sentire solo più forte nei rapporti umani, ma poi alla fine vai a finire per passare il tempo con le persone. Quindi posso concludere che in realtà l'uso della cocaina, nell'accezione che lei lo descrive, condanna alla sfiga perenne il suo consumatore? Assolutamente, perché guardi, anche un idiota si rende conto se uno ha usato cocaina. Grazie, la ringrazio. Ringrazio anche Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, il professor Paolo Rigliano. A lunedì, anzi. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Radio 24. La passione si sente.